Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Oggi, anche per dimenticare il difficile momento che viviamo in Europa, spicchiamo il volo verso le antipodi e lo facciamo per introdurvi al mondo australiano con un focus particolare sul settore dell'hospitality. Insieme alla testimone della settimana approderemo a Melbourne, una delle principali città australiane, dove indagheremo sulle opportunità di studio e lavoro per chi volesse specializzarsi nelle professioni legate al turismo, ma non solo. Come sempre lo faremo con tante informazioni utili e di primissima mano di chi queste esperienze le sta vivendo e intende condividerle con voi. In Toolbox vi offriremo un importante approfondimento di attualità legato agli ormai imminenti cambi delle regole sull'immigrazione in Gran Bretagna per lavoro e per studio. Dal 1 gennaio fare ingresso nel Regno Unito sarà molto diverso per chi intende risiedervi. L'ambasciata britannica in Italia ci spiegherà come. Nella seconda parte del programma sarà Eures Italia a fornirci tutte le coordinate necessarie per trovare il vostro nuovo lavoro in Europa. E a chiudere, siamo al primo sabato del mese, non dimenticatelo, i consigli di Mario Gastaldi su dove andare a portare il vostro progetto di impresa nel mondo. Siamo dunque pronti a spiccare il volo verso l'Australia. Tra poco atterreremo virtualmente a Melbourne. Generazione Mobile. Lo spunto della settimana arriva dalle recenti parole del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. L'Italia è al primo posto per la percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione. Oltre 2 milioni. Si tratta, ha detto Visco, di un drammatico spreco di potenzialità a livello non solo economico, con conseguenze particolarmente gravi sul piano sociale. È urgente rispondere e da questo dipende il futuro del paese. Così Visco. Bene, siamo arrivati a Toolbox, la nostra cassetta degli attrezzi utile a orientarvi nel mondo del lavoro internazionale, dove intendiamo offrirvi una guida utile sulle nuove regole di espatrio in Gran Bretagna a partire dal prossimo 1 gennaio, quando cambieranno molte cose. Il Regno Unito introdurrà tra 27 giorni un nuovo sistema di immigrazione a punti che darà priorità alle competenze e al talento. Gli europei, insomma, non avranno più alcuna priorità rispetto ai cittadini di altri paesi come è avvenuto finora. Di conseguenza, i cittadini italiani che non vivono ancora nel Regno Unito ma desiderano espatriare oltre Manica dovranno soddisfare specifici requisiti e richiedere un visto attraverso il nuovo sistema di immigrazione. Ma ci spiega tutto Pierluigi Puglia, portavoce dell'ambasciata britannica in Italia. Dal referendum del 2016 si compie alla fine di quest'anno il percorso di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, questo con diversi cambiamenti dal punto di vista della libertà di movimento delle persone tra il Regno Unito e gli altri paesi dell'Unione Europea, Italia in primis. Cambiano alcune cose, alcune altre rimangono invariate. Sicuramente il 1 gennaio è una data importante per capire cosa effettivamente accadrà. Entriamo allora nel dettaglio delle nuove regole che ci saranno e che vanno imparate proprio per evitare poi problemi successivi. Partiamo da chi vuole trasferirsi in Gran Bretagna per lavorare. Finora era abbastanza semplice, si andava oltre Manica, si cercava un lavoro. Ora invece dal 1 gennaio non sarà più così. Perché? Sì, dal 1 gennaio 2021 cambiano le regole per l'immigrazione nel Regno Unito dai paesi dell'Unione Europea. Questo significa che chi vuole trasferirsi stabilmente nel Regno Unito per motivi di lavoro, ad esempio, dovrà fare richiesta di un visto. Per ottenere questo visto lavorativo bisogna soddisfare alcune condizioni, abbastanza semplici tutto sommato. Il primo è quello di avere un'offerta di lavoro in mano, quindi una concreta possibilità di iniziare a lavorare nel Regno Unito da parte di un datore di lavoro. Il secondo criterio da soddisfare è quello di avere uno stipendio minimo offerto dal proprio datore di lavoro nel Regno Unito di almeno 23.500 sterline. Ed il terzo criterio è quello di saper parlare un inglese a livello intermedio. Invece, chi volesse venire in Gran Bretagna a studiare e non per il classico corso estivo, ma per fare proprio il percorso universitario accademico o un master, un PhD, quindi parliamo di formazione superiore, occorrerà comunque avere un visto? Al pari del visto di cui abbiamo parlato per il lavoro oltre Manica, anche chi volesse andare a studiare ad un corso universitario di specializzazione nel Regno Unito oltre i 6 mesi, di una durata oltre 6 mesi, dovrà fare richiesta di un visto, per ottenere il quale bisogna soddisfare alcune condizioni. abbastanza semplici. Il primo è quello di essere in possesso di una dichiarazione di disponibilità da parte dell'istituto universitario ad accogliere lo studente e la studentessa ad uno dei corsi. Il secondo è quello di dimostrare la propria sussistenza dal punto di vista economico e finanziario durante il periodo di permanenza per studi nel Regno Unito. Ed il terzo è quello di una conoscenza della lingua inglese che metta lo studente o la studentessa in grado ovviamente di seguire i corsi e di prepararsi e di presentare gli esami. C'è infine una categoria importante che riguarda tutti coloro i quali vogliono semplicemente visitare per turismo o anche per brevi periodi di studio il paese. Si parlò tempo fa dell'ipotesi di fare un ESTA, in realtà poi alla fine sarà tutto più semplice, non cambierà molto, è corretto? Esattamente, questa è una notizia importante per chiunque guardi al Regno Unito, non tanto per trasferirvisi stabilmente, ma per le proprie vacanze, per andare a trovare i tanti amici e parenti italiani che vivono oltre Manica, per seguire alcuni corsi di studio della lingua inglese, ad esempio, che sono di minor durata. In questo caso si può andare liberamente nel Regno Unito senza bisogno di alcun visto, basta avere ed essere in possesso di un passaporto valido, ovviamente. Voglio sottolineare che le carte d'identità cartacee non sono più valide già da qualche settimana e quindi bisogna dotarsi di un passaporto, ma non è necessario alcun visto. Per dare un'idea della durata, l'importante è che si stia sotto i 6 mesi fondamentalmente. Esatto, questa fattispecie riguarda chiunque voglia recarsi nel Regno Unito per un periodo di tempo fino ad un massimo di 6 mesi. Per tutte le informazioni potete cliccare su www.gov.uk/trasferirsi nel Regno Unito, tutto attaccato. E allora andiamo adesso a conoscere la testimone della settimana, una giovane studentessa 22enne che ha scelto l'Australia per specializzarsi nel settore dell'hospitality, sfidando, è il caso di dirlo, uno dei periodi più complicati nella storia del settore. Da dove partire per muoversi verso gli antipodi, cosa fare una volta approdati là e quali opportunità cercare? Jaele oggi ci spiegherà e vi spiegherà tutto questo. Buon pomeriggio, Jaele Pellegrini. Buon pomeriggio. Dopo il liceo linguistico ti trasferisci in Australia, a Melbourne, per la laurea triennale. Perché hai fatto una scelta così estrema, lontana migliaia e migliaia di chilometri dal nostro paese? Fin da piccola ho sognato di studiare all'estero, all'università, e al liceo durante le vacanze in terza superiore sono venuta in Australia per una vacanza e mi è piaciuta molto la città di Melbourne e il lifestyle e le tante opportunità lavorative che ci sono. Così in quinta liceo ho cominciato a informarmi un po' sulle università e come fare per trasferirsi. Cosa stai studiando adesso in Australia, Gele? Sto facendo una laurea triennale in business con major specializzazione in hospitality and tourism management. Come hai trovato innanzitutto la metodologia di insegnamento in Australia? Quanto è diversa rispetto all'Italia? Le lezioni sono molto simili, vai in università e il professore spiega e prende appunti, però si cerca di spiegare la teoria con più esempi pratici, infatti molti dei miei professori sono dei professionisti del settore hospitality e cercano sempre di arricchire le lezioni con esempi pratici del settore. E arriviamo ai tuoi consigli pratici, Jaele. Come si cerca un percorso di laurea in Australia dall'Italia? A quali siti fare riferimento per prima cosa? Nel mio caso ho trovato la mia università principalmente cercando online, su internet. Ho trovato tante informazioni sui siti delle diverse università che stavo guardando, però si può anche fare riferimento ad agenti di immigrazione per studenti. Quali sono le principali università a Melbourne? Le principali università a Melbourne sono la University of Melbourne, Monash University, RMIT. E la Melbourne e Monash sono nel Group of Eight, che sarebbe il gruppo delle 8 università in Australia, nella classifica delle prime 100 al mondo. Immagino che molte pratiche burocratiche vadano svolte a distanza, ancora prima di partire. Allora, bisogna prevedere una trafila lunga, con quanto anticipo muoversi soprattutto? Sì, le pratiche burocratiche sono abbastanza lunghe e complicate e consiglio di cominciare a muoversi il prima possibile. Nel mio caso ho cominciato poco prima di finire il liceo e l'anno scolastico qui inizia a febbraio-marzo, quindi circa 6 mesi. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Gioele Pellegrini, 22enne studentessa di Hospitality and Tourism Management a Melbourne in Australia, dove ha anche mosso i primi passi nel mondo del lavoro. Gioele ci sta regalando una miniera di consigli preziosi sulle tappe da percorrere per studiare agli antipodi, con un occhio pure alle opportunità di lavoro nel settore turistico. Riprendiamo allora l'ascolto. Generazione Mobile. Per ammortizzare i costi, immagino ci siano delle borse di studio, come cercarle? Sì, ci sono borse di studio nelle università più importanti, però sono poche e molto competitive, difficili da ottenere. Alla mia università ne offrono molte, però è un'università più piccola e quella che ho ottenuto è per studenti europei. Si possono trovare sul sito delle diverse università, solitamente c'è una sezione scholarships dove si possono vedere tutte le borse di studio che offrono. Bene, questa è un'ottima dritta e soprattutto non bisogna dimenticare di avere un buon livello di inglese di partenza. Attenzione, fate attenzione, perché Gioele? Importante avere un buon livello di inglese perché per poter studiare nelle università australiane bisogna aver ottenuto un certificato di completamento di un esame di inglese, che può essere l'IELTS, il PTE o il Cambridge English Advanced o altri esami, e deve avere un certo voto. Si può trovare più informazioni sui siti delle università che specificano il voto che richiedono. Il visto, nonostante si tratti di studio, non è una formalità. Ci spieghi, Gioele, tappa per tappa cosa accade dopo aver ricevuto la lettera in cui l'università offre una posizione da studente? Nel mio caso, dopo aver ottenuto la lettera dall'università, ho contattato un agente di immigrazione per studenti che ha un accordo con la mia università. Quindi i servizi erano gratuiti, che mi ha aiutato con la domanda per il visto. Solitamente però si cerca l'agente prima che manda la domanda di iscrizione all'università e poiché ho ricevuto la lettera WAF vicino alla data di iscrizione del corso, ho fatto prima una domanda per un visto turistico che si può ottenere facilmente sul sito di immigrazione australiana e poi una volta arrivata il mio agente ha fatto la domanda per il mio visto per studenti che ho ricevuto dopo qualche giorno. Però ci può volere più tempo, fino a qualche settimana, perciò consiglio di farlo il prima possibile e di avere tutti i documenti necessari. In una battuta, corsi ed esami nell'anno accademico australiano sono molto diversi, sono organizzati diversamente rispetto all'Italia? Sì, l'anno scolastico comincia a febbraio-marzo, nel mio corso si hanno lezioni 2-3 giorni a settimana e il voto finale di ogni corso è un po' diverso, non è solo un esame ma sono tanti compiti che si svolgono durante l'anno. Parlando di lavoro, Gioele, tu hai già fatto anche alcune esperienze di lavoro in Australia, brevissimamente? Sì, ho lavorato per 2 anni come cameriere in un ristorante italiano e poi ho lavorato in un hotel in centro città. E quali sono i siti migliori in generale per cercare lavoro in Australia? I siti principali per trovare lavoro sono seek.com.au, indeed.com e Gumtree Jobs. E più nel dettaglio, nel settore dell'hospitality, ovviamente ricerche farai anche tu quando poi ti laureerai, come cercare lavoro ad alto livello? Il settore hospitality qui è molto sviluppato ed è abbastanza facile trovare lavoro. E, ogni università ha una career advisor, che sarebbe una figura che ti può aiutare a trovare lavoro a un tirocinio. E grazie al mio career advisor ho trovato lavoro in hotel. Parlando di vita pratica, la casa, una delle prime questioni di cui occuparsi, ti chiedo Gioele quali sono i siti migliori dove cercare case in Australia e quali costi anche aspettarsi, nello specifico qui a Melbourne. Molti studenti decidono di affittare una stanza su flatmates.com.au, quindi cercando compagni di stanza, perché le procedure per affittare una casa sono molto complicate e molti documenti sono necessari. I costi per una stanza in centro città sono attorno ai $200, $250, e nelle periferie sono un po' più bassi e dipendono da quanto sei lontano dal centro. Gelle, ringraziandoti per i tantissimi consigli molto pratici, come abbiamo ascoltato, che hai regalato nel corso di questa puntata, ti pongo la nostra domanda di rito: quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio per studiare o magari anche lavorare? Sicuramente, prima di tutto, di studiare bene l'inglese, perché sapendo bene la lingua ci si può assicurare molte opportunità e oltretutto è necessario proprio per studiare all'università, quindi studiare bene l'inglese. Bene, salutiamo allora Jaele e spazio adesso alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Nuovo appuntamento con le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia EURES Italia. Sentiamo. Sono Patrizia Mercuri, EURES Advisor di Agenzia Piemonte Lavoro. Oggi vorrei illustrarvi brevemente le opportunità di lavoro e di apprendistato della Germania. Le offerte di lavoro riguardano i seguenti profili. Un farmacista, si richiede laurea in farmacia e precedente esperienza di lavoro, il livello B1 di conoscenza della lingua tedesca. 6 educatori per asili nido e scuole dell'infanzia. I requisiti richiesti sono laurea triennale in scienza dell'educazione e formazione, conoscenze nell'ambito della scuola dell'infanzia, disponibilità ad apprendere il tedesco e frequentare un corso intensivo prima di iniziare a lavorare. 4 autisti di camion, si richiede la patente di guida corrispondente, carta di qualificazione del conducente, carta del conducente, livello A2 della lingua tedesca, precedente esperienza professionale. Le offerte di apprendistato, che in Germania dura 3 anni, è indirizzata invece ai diplomati del settore turistico alberghiero con un livello di conoscenza 2 della lingua tedesca. I dettagli di tutte queste offerte saranno disponibili al sito www.ampal.gov.it/eures e sui canali social EURES Italy. Inoltre potranno essere visibili anche sui social dei servizi EURES di tutte le regioni italiane. Grazie per l'attenzione e buona giornata. E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Prima puntata del mese, l'appuntamento di rito è con Imprenditori Globali, lo spazio di consigli su come andare a fare impresa oltre confine. E torna con noi Mario Gastaldi, consulente internazionale e creatore del gruppo Facebook L'Arte dell'Espatrio Ragionato. Mario oggi ci porta in Albania. Sentiamo. Per gli imprenditori globali italiani che vogliono andare a intraprendere all'estero, questa volta oggi parliamo dell'Albania e iniziamo subito con la residenza. Puoi ottenere la residenza fiscale in Albania se abiti in Albania e devi avere anche un conto corrente locale. Ci devi abitare in modo continuativo, anche intermittente, per più di 183 giorni in un anno solare. E ovviamente il tuo centro di interessi economici deve essere in Albania. Per ottenere la residenza bisogna dimostrare che la ragione del soggiorno è di natura economica, tipicamente si tratta quindi anche di avere un lavoro o sicuramente avere un'impresa. Il permesso di soggiorno dura un anno e dopo la seconda richiesta di soggiorno annuale si può fare domanda per un soggiorno quinquennale, successivamente se ne può ottenere uno a tempo indeterminato. E veniamo alle tasse, quindi prima di tutto la tassazione personale. La tassazione sugli individui prevede un'aliquota del 13% per redditi da 30.000 a 150.000 euro, quindi molto modesta. Per importi che superano i 150.000 euro l'aliquota sale al 23%. Ci sono dei contributi previdenziali, lavoratori autonomi e lavoratori che hanno imprese pagano un contributo previdenziale del 23%. La legge tributaria albanese calcola come riferimento lo stipendio minimo mensile albanese, per far questo il più basso dell'area europea. Ma sono previsti aumenti per gennaio 2021 e che porteranno lo stipendio a un livello più alto e quindi anche i contributi. L'approvazione di questi aumenti sta ricevendo resistenza da parte delle associazioni imprenditoriali che lamentano l'assenza di una riforma dei profili dei lavoratori. Ed infine, per concludere, vediamo la tassazione delle società. L'attività autonoma con fatturato fino a 5 milioni di LEC, circa 40.300 euro, è assolutamente esentasse.